Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità e lo sviluppo del pensiero mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani, nell'intento di contribuire alla costruzione di una società della cooperazione fra specie. È la puntata numero 657 e parleremo di squali e di bombi, di cinghiali e di animali domestici, di scienza e di cronache ribelli. La ricetta della settimana e la colonna sonora sono a cura del nostro vegan chef e DJ Gabriele Palloni. Hey Joe, where you going with that gun of yours? Cominciamo con una notizia curiosa che però ci aiuta a riflettere ancora una volta sulla trasformazione in corso negli ecosistemi. Alcuni ricercatori della Florida Atlantic University, studiando una varietà di squali, gli squali oscellati, si sono accorti che hanno sviluppato la capacità di spostarsi sulla terraferma per sfuggire al riscaldamento dell'Oceano Pacifico. Sono dunque degli squali camminanti, in qualche misura anfibi. I ricercatori riferiscono che si tratta di squali che possono crescere fino a un metro di lunghezza e che stanno attraversando un percorso evolutivo in risposta ai cambiamenti climatici e soprattutto alle alterazioni delle temperature nella barriera corallina dell'Oceano Pacifico. Questi squali storicamente si sono evoluti per utilizzare le loro quattro pinne laterali per spingersi sul fondo del mare e proprio questa abilità potrebbe essere la chiave per la loro sopravvivenza nei nuovi ecosistemi caratterizzati da acque bollenti e dalla necessità di spostarsi da un ambiente all'altro. Gli studiosi hanno infatti dimostrato che facendo leva sulle pinne, questi squali possono in qualche modo camminare sulla terraferma fino a 30 metri e sopravvivere per 2 ore alla carenza di ossigeno. Una capacità preziosa per spostarsi nelle acque coralline, attraversando anche dei tratti fuori dall'acqua e per raggiungere punti più vantaggiosi per l'alimentazione e per sfuggire a eventuali predatori. Va detto che altre varietà di squali hanno sviluppato simili capacità di cammino e di sopportazione alla carenza di ossigeno, segno che le specie animali stanno attuando processi di adattamento al cambiamento climatico. Tutto questo avviene, ricordiamolo, mentre gli squali sono sottoposti a una campagna di sterminio attuata dai cacciatori di pinne. Si stima che ogni anno quasi 100 milioni di squali siano pescati, mutilati delle pinne che vengono utilizzate a fini alimentari e rigettati in mare verso una morte certa. E d'altronde, allargando lo sguardo alle reali condizioni degli oceani, ecco uno studio della Dalhousie University canadese pubblicato su Nature che informa come le emissioni di gas a effetto serra siano destinate a produrre l'estinzione di specie marine fino al 90% del totale, se queste emissioni di gas entro la fine del secolo non si ridurranno drasticamente. Secondo questi ricercatori, i rischi climatici incombono su quasi 25.000 specie marine. So Qualcosa di simile a quanto osservato per gli squali sta avvenendo per i bombi. Secondo uno studio condotto dagli scienziati dell'Università di Ottawa e dell'Imperial College di Londra, negli ultimi anni i bombi si sono svegliati in media dai 6 ai 35 giorni prima rispetto a qualche anno fa, anticipando la fioritura delle piante, e hanno alterato in questo periodo la simmetria delle proprie ali a causa dell'aumento delle temperature. Questo cambiamento naturalmente deve essere valutato con preoccupazione, perché segnala un'alterazione degli habitat e delle abitudini di questi animali e quindi una loro sofferenza. I bombi tentano di adattarsi alle nuove condizioni, ma gli esiti sono incerti. La direttrice del gruppo di ricerca, Olga Koppel, fa notare che le oltre 40 specie di bombi originarie del Nord America forniscono preziosi servizi ecosistemici impollinando le colture agricole, su cui milioni di persone fanno affidamento come fonte di alimentazione. Il nostro lavoro, sostiene Koppel, evidenzia l'importanza di investire nella protezione della biodiversità e fornisce una tabella di marcia per valutare le risposte temporali su larga scala ai cambiamenti climatici per molti insetti e altri animali. Abbiamo parlato la settimana scorsa delle lotte condotte dalle associazioni animaliste per salvare un gruppo di cinghiali chiuso in un parco della Spezia. Un caso che si è risolto favorevolmente, nonostante la cattiva stampa, diciamo così, che circonda i cinghiali, animali presi a simbolo di un degrado che in realtà è tutto delle società umane. La notizia è che si sono concluse le operazioni di recupero delle famigliole di cinghiali rimaste chiuse nel parco della Maggiolina. Gli animali sono stati sedati e trasferiti in un'area verde recintata a Riccò del Golfo. Purtroppo, durante queste operazioni, è morto uno dei cuccioli, sul quale dovranno essere effettuate delle analisi per capire quale sia stata la causa del decesso. Gli animali sono arrivati in un'area privata, boschiva, di oltre 2.000 metri quadrati, recintata, in passato adibita all'addestramento dei cani. In questo spazio gli ungulati saranno monitorati da personale della ASL 5 in attesa dell'esito delle analisi che servono ad escludere che il contagio da peste suina abbia raggiunto questi cinghiali o che vi siano fra di loro altre malattie. Restano ancora dei punti oscuri sulla gestione del nuovo spazio e le associazioni animaliste restano vigili, mentre la LAV afferma che la soluzione incruenta del caso Spezzino ha generato un precedente che fa storia in Italia nella difesa dei cinghiali. Solo 2 anni fa, dice LAV, questo non è stato possibile con i cinghiali uccisi dalla ASL Capitolina in nome di Comune e Regione Lazio in un giardino pubblico a Roma. Speriamo a questo punto che il caso della Spezia faccia davvero scuola. Arrivata sulle agenzie di stampa una notizia che consente di capire che cosa stia maturando nel campo della ricerca scientifica e in particolare in quel comparto che si ostina a sperimentare farmaci e altre soluzioni mediche sugli animali. Un gruppo di ricerca dell'Università di Cambridge ha pubblicato su Nature l'esito di uno studio sulle cellule staminali che ha portato a generare da cellule di topi un embrione sintetico, il quale si è sviluppato per 8 giorni e mezzo, arrivando ad avere un cuore che batte, una bozza di cervello e di intestino. Secondo i ricercatori, questo è un risultato che permette già di guardare al futuro, quando la stessa tecnica potrà essere utilizzata per ottenere embrioni umani e studiarne tutte le fasi dello sviluppo, in modo da capire malattie, sperimentare farmaci senza ricorrere a test sugli animali e infine coltivare in laboratorio organi umani destinati a trapianti. Lo studio è stato realizzato dallo stesso gruppo di ricerca che nel 2017 aveva ottenuto il primo embrione sintetico di topo a partire da cellule staminali, senza cioè ricorrere a ovociti e spermatozoi. Come riferisce l'agenzia ANSA, dalla quale riprendiamo la notizia, l'embrione sintetico è nato da una combinazione di cellule staminali embrionali con cellule della struttura necessaria al nutrimento dell'embrione e cellule extraembrionali, tutte di topo. La differenza rispetto al 2017 e nel fatto che i ricercatori sono riusciti a far dialogare le cellule fra loro, in modo che si assemblassero in maniera spontanea. L'embrione sintetico così ottenuto si è sviluppato in una struttura complessa, nella quale si distinguono alcune regioni del cervello, il tubo neurale che dà origine al sistema nervoso, una struttura simile al cuore, in grado di battere, e un'altra simile all'intestino. Sono stati quindi raggiunti gli obiettivi che i ricercatori si erano posti. Lo stesso team sta lavorando a un modello di embrione umano analogo a quello di topo e l'obiettivo è riuscire a comprendere passaggi cruciali dello sviluppo embrionale. Un altro obiettivo è costruire in laboratorio organi per i trapianti destinati ai pazienti in lista d'attesa. Insomma, la ricerca scientifica sta proseguendo, nonostante l'ostruzionismo della ricerca vecchio stile, ancorata al modello della sperimentazione sugli animali. Love me. Papa Francesco è tornato a esprimersi sul rapporto esistente nella società presente con gli animali domestici, ripetendo ancora una volta la sua tesi, e cioè il fatto che la cura di cani e gatti starebbe sopravanzando quella per i propri figli, frenando in qualche modo la riproduzione umana. Ci sarebbe in sostanza una competizione fra animali domestici e bambini, che alla fine nemmeno nascerebbero. Sappiamo che la cosiddetta denatalità fra gli autoctoni nella nostra penisola è uno dei cruci del Papa e della intera Chiesa cattolica, ma che vi sia un nesso fra questo fenomeno storico e la cura di cani e gatti è tutto da dimostrare. È poco convinta di questo esempio, per esempio, l'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, che risponde a Papa Bergoglio, il quale, precisiamolo, ha fatto le sue affermazioni a braccio, davanti alle partecipanti al capitolo generale delle canossiane. Per favore, ha detto Francesco, aiutate le famiglie ad avere figli. Invece dei figli preferiscono avere cani e gatti. È un po' un affetto programmato, un affetto senza problemi. Questa è una cosa brutta. Per favore, aiutate le famiglie ad avere dei figli. È un problema umano, ma è anche un problema patriottico. L'ENPA, che forse non è patriottica quanto il Papa, che pure è argentino, cita il rapporto Eurispes 2022, secondo il quale a possedere animali di affezione in casa sono soprattutto le coppie con i figli, siamo al 37% dei casi, seguite dalle famiglie di monogenitori con figli, ed è il 36,5% dei casi. Il pontefice persevera nell'errore, ha commentato Carla Rocchi, presidente ENPA, e finisce per ridicolizzare le famiglie con figli animali e perfino tutti quei bambini che ricevono affetto da cani e gatti. L'amore per gli animali è un valore in sé, assoluto, non c'entra avere o non avere figli, che non rappresentano un ostacolo, dice Rocchi. Ed è logico perché per prendersi cura di un animale serve la propensione a donare amore, tempo e dedizione. Ed è piuttosto naturale che le stesse persone che hanno questa predisposizione e generosità nell'accogliere un animale sono le stesse che hanno scelto di cambiare la loro vita per diventare genitori, affrontando mille sacrifici e andando incontro ad altrettante gioie. Nei giorni scorsi sui social media cinesi ha spopolato un video che riprendeva la corsa di un'ottantina di struzzi nelle strade della città di Chongzuo, una metropoli di oltre 2 milioni di abitanti. Gli struzzi erano fuggiti da una fattoria della zona, a dimostrazione dell'ansia di libertà che anima tutti gli animali prigionieri di allevamenti o altri luoghi di detenzione. È da questo episodio che Gabriele Palloni si è fatto ispirare per la ricetta della settimana. Ricordiamo che Gabriele è autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Cosa hanno in comune gli struzzi e la calia, piatto povero della tradizione calabrese a base di ceci? Ma semplice, entrambi sono famosi per nascondersi sotto la sabbia. Ed ecco qua la ricetta di questo gustosissimo street food. Calia calabrese. Gli ingredienti per 4 persone sono 300 g di ceci secchi e della sabbia di mare molto fine. Avvolgete i ceci secchi in un panno ed immergeteli in acqua bollente per 10 minuti. Trascorso il tempo necessario, scolate e togliete i ceci dal panno, tamponandoli con un altro per asciugarli bene. Adesso mettete la sabbia di mare, sceglietela molto fine, in un tegame, possibilmente di coccio. Fate scaldare a fuoco medio e una volta che la sabbia sarà molto calda, versate i ceci, girandoli affinché siano coperti dalla sabbia, evitando che tocchino direttamente il tegame. Dopo una decina di minuti, toglieteli dal fuoco e versate tutto, compreso la sabbia, in una teglia con un panno e coprite con un secondo panno, lasciando raffreddare e coprendo il tutto con una coperta bella spessa. Quando sarà tutto freddo, filtrate i ceci dalla sabbia con un setaccio e puliteli con un panno asciutto per togliere eventuali residui. E infine, sgranocchiate. A proposito di animali ribelli, torniamo a proporvi, come 2 settimane fa, una lettura da un libro che ci pare prezioso. Si intitola Cronache ribelli e ha come sottotitolo Almanacco di utopie reali, identità indelebili e rinnovata memoria. 250 storie di lotta, coraggio e amore. Questo libro è pubblicato da CR Edizioni e può essere considerato un repertorio di chi non si è rassegnato, di chi ha lottato, di chi ha inseguito la sua utopia e quindi contribuito a cambiare il mondo in direzione di maggiore giustizia, più uguaglianza, più libertà. Ebbene, fra le 250 storie figurano anche quelle di animali e di persone che per gli animali si sono battute. La volta scorsa abbiamo parlato dell'elefantessa Topsy. Stavolta parliamo della giornata della protezione della fauna selvatica, che cade il 3 febbraio. Leggiamo. Quando il corpo senza vita di Dian Fossey fu rinvenuto il 26 dicembre 1985, nella sua capanna, fra i monti Virunga, in pochi si stupirono. Aveva pestato troppi piedi e in parecchi desideravano vederla morta. Questo perché Diana non aveva peli sulla lingua. Non temeva di dire che mettere i cuccioli di gorilla in uno zoo significava farli entrare in un lager e condannare a morte certa gli altri membri del loro gruppo, che li avrebbero difesi fino all'ultimo spasmo di vita. Non si preoccupava di affermare che il turismo era pericoloso per i gorilla di montagna, perché distruggeva gli habitat e introduceva malattie potenzialmente letali per questi primati. non aveva paura dei bracconieri e dei governi, non temeva gli scontri, anche molto duri, con la popolazione locale. Non le interessava di inimicarsi i colleghi e la stampa, perché per Diane solo una cosa era importante: salvare Gorilla, salvarli tutti. Prima studiosa ad avere un contatto pacifico con i gorilla di montagna testimoniato fotograficamente, nel giro di pochi anni Diane divenne la maggiore esperta globale di questa specie. Il suo approccio, del tutto inusuale, copiava i comportamenti dei gorilla, le permise di essere accolta da pari all'interno dei gruppi che stava studiando. Digit, il maschio che guidava uno dei gruppi, arrivò ad avere con lei un rapporto di fraterna amicizia, che si interruppe tragicamente nel capodanno del 1977, quando venne ucciso mentre cercava di difendere i suoi simili dall'assalto dei bracconieri. Ma Digit non era morto invano. Aveva fatto fuggire 13 gorilla e soprattutto aveva fatto capire a Diane che prima di studiare questi magnifici animali doveva proteggerli. In 18 anni questa donna, con l'aiuto di pochissimi collaboratori, combattendo contro mezzo mondo, distrusse centinaia di trappole messe dai bracconieri, pattugliò decine e decine di chilometri quadrati, consegnò alla giustizia numerosi cacciatori di frodo e lottò fino all'ultimo dei suoi giorni, quando cercò di caricare la sua pistola per sparare a chi la stava aggredendo con un panga, l'arnese utilizzato per uccidere gorilla. Non ce la fece e fu massacrata. Ancora oggi è impossibile indicare con precisione un colpevole. L'ultima annotazione del suo diario fu: «Quando ti rendi conto del valore di ogni vita, ti soffermi meno a pensare su ciò che è passato e ti concentri di più sulla preservazione del futuro». I gorilla di montagna sono ancora oggi una delle specie a più alto rischio di estinzione. Ma se sono arrivati fin qui, è anche perché ce li ha portati Diane Fossey. Speriamo, anche per lei, che camminino ancora a lungo su questa terra. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime, I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. But it raised no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back, cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back, coming back after all these years. Rat-a-tat-tat-tat-tat. That's the way it is. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Never change. Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Valentina Reggioli, Valentina Baronti, Anna Granata, Gianluca Masala, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.